sarebbe più inutile usare le parole. Da come mi guardi lo so che capisci lo stesso i miei pensieri. E basta un tuo cenno per darmi conferma di quanto mi riesci a capire. Lo sai che per noi è normale ciò che per ogni altro sarebbe magia. E poi nell'amore ti sciogli come fossi tempesta, mi scivoli via. Tu sei terra e fuoco, sei dentro di me. E quando ritorni tranquillo, io riesco a sentire distinto ciò che hai dentro te. Parole silenziose, lodevoli e curiose, son fatte di silenzi, sguardi maliziosi, nascono da soli e senza pregiudizi, onesti e sinceri come i tuoi capricci, tra i chiaroscuri dei miei pensieri, respiro ancora le tue paure ombrosi che si riflettono in me come le luci riflesse in un bar. Parole silenziose che sgocciolano amore, sono movimenti che nascono da soli, su mille facce buffe da sembrare ridicoli. Va bene con tutti, dai più grandi ai più piccoli. Di sorrisi e sguardi premurosi nascono da soli con i tuoi capelli lisci mentre mi dici nel silenzio che mi è.